non mi pare proprio che si debba dimettere. Se vuole andare a salutare il Presidente della Repubblica in visita di cortesia può farlo, ma certamente non perché vi siano ragioni istituzionali che le impongano. Il risultato ottenuto oggi è assolutamente confortante. Abbiamo le idee chiare sui numeri, intanto che l'opposizione non sorpassa questi numeri non c'è nessuna ragione per dover assumere decisioni istituzionali di altro genere. Dobbiamo solo continuare a guidare il Paese come sta facendo adesso il Presidente Berlusconi di governo. Ma 308 sì e 321 non votanti, non vuol dire che l'opposizione l'ha superato? No, intanto non sono 308 ma sono 309 perché non aveva Malgeri arrivato, poi se non lo vuole Papa che dopo il giudizio della Cassazione non dovrebbe tardare molto tempo a venire a votare, poi vedremo alla fine se quelli che mancano sono tutti voti contrari o sono voti di astensione. Se sono voti di astensione certamente non favoriscono un risultato favorevole alle opposizioni. Il risultato si ottiene attraverso la legge dei numeri. La legge dei numeri fino a questo momento conforta il fatto che il Presidente Berlusconi continui a guidare l'Italia. Però intanto il Presidente Berlusconi ha riunito con Bossi, Tremonti, ha detto ragazzi decidiamo subito cosa dobbiamo fare, quindi un po' di preoccupazione c'è per questo voto. Io credo che riunioni con Bossi, Tremonti ne faccia 3 o 4 la settimana, quindi non mi pare che ci sia nulla di straordinario.